Ci sono parole chiave che attirano l'attenzione, cuore, sapienza, ascolto, tesoro, campo. Cuore nella Bibbia indica la fonte delle decisioni, delle scelte, luogo dove nascono i desideri, i pensieri, le intenzioni, i progetti, le parole, le azioni. In altri termini, è la sorgente della coscienza. E lì bisogna fermarsi tutti quanti, davanti alla coscienza propria. La sapienza, saggio è colui che nelle diverse circostanze della vita si sforza, cerca di distinguere ciò che vale e ciò che è vacuo, ciò che è effimero. Quindi, nella quotidianità, non perde di vista il punto fondamentale, quello che il saggio dice: il mio Signore. C'è l'ascolto, colui che non è attento al mondo, alla storia, agli eventi, all'uomo, a Dio, ruota attorno a se stesso e si trova vuoto. Ve lo suggerirà un articoletto che ho trovato molto saggio di uno scrittore che conoscete. Egoismo contro egocentrismo. È una paginetta stupenda che ricalca questo. Questo è quanto chiede Salomone a Dio: il dono di un cuore che sappia ascoltare. E poi il tesoro, una parola magica, tesoro, così poco usata nella lingua liturgica e nel linguaggio teologico, nel linguaggio religioso. È una parola di innamorati, magari di favola, magari di storie grandi, ma è anche parola di Vangelo. Parola che alle volte può capovolgere la vita. E poi il campo. Dov'è questo campo? È là dove siamo immersi, è là dove abitiamo, perché il mondo, il campo, è la storia, è anche il cuore, e la vita altro non è che un viaggio, pellegrinaggio verso il luogo del cuore, dove maturano anche i desideri, là dove stanno nascosti i desideri, i segreti, i tesori da scoprire. Faccio un'altra osservazione, poi se stufate, se vi stufo, girate il click. Passate quello che volete. Quando mi interrogo sul perché questa straordinaria realtà misteriosa, il regno dei cieli, che è la vita però, ed è così provvisoria, così precaria, come se ci fosse una specie di genio folle, perfido, sopra di me, che mi fa esultare per il vivere, ma poi mi coinvolge o mi sconvolge con il soffrire e anche il morire. Che senso ha allora questo nostro vivere? Vabbè, poi dopo si potrebbe dire che senso ha il nascere, ma queste sono domande che fanno gli adolescenti. Però qualche volta non è brutto essere adolescenti. Non ci sono parole, non c'è linguaggio adatto a esprimere anche solo un palpito che si trova nell'esultanza, nella gioia del vivere, dell'amare, del condividere, del perdonare, magari anche la paura del soffrire. Questa sfera misteriosa ci richiama la sapienza del vivere, che non si compra, che non si studia. La sapienza è la finezza dello spirito e che si ha perdono e si coltiva e si acquisisce attraverso l'esperienza del dono. Io ti dono. E anche qui dove trovano senso le parole del Vangelo narrato. Il regno di Dio, questo tesoro nascosto, si può tradurre in questa diversità del mio essere al mondo, al mio vivere, per cui già fin d'ora mi è possibile esserci in questo regno dei cieli, esperienza che ognuno di noi può raccontare. Fermo qui. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Uomini di buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.